Tradizione corporale, vomitare a secco. Tutto ciò che ho da dire a te. Freddo come barba sui capelli. Dove puoi vederla bene. Se